A Genova era una farmacia ambulante. Avevo tutto ciò che serve a uno sportivo per rendere in fase agonista: vitamine, integratori salini, guaranà, efedrina. Ero anche pronto a resistere a un assedio: scatolette di tonno, fagioli, biscotti e cioccolata. Prima di partire avevo letto L'arte della guerra di Sun Tzu e quindi sapevo che il campo avrebbe potuto allagarsi, che c'era il rischio di venire assediati e che potevamo restare senza viveri, cose poi accadute davvero. I cinesi hanno sempre capito meglio di chiunque altro la guerra. A Genova mi è successo di tutto. Al G8 la mia vita e quella di ogni altro individuo è cambiata completamente. A Genova mi sono divertito. A Genova ho conosciuto molta gente. Alcune delle persone conosciute a Genova sono diventate per me importantissime. A Genova ho pianto, ho corso molto, ho salvato delle persone, ho infilato in bocca limoni a gente disidratata. Ho affrontato la giornata di sabato tra scontri e mattanze insieme a Luchino, come vecchi tempi, perché in quei frangenti può avere al fianco solo quelli di cui ti fidi, quelli con cui le cose le hai fatte e sai che le sanno fare, quando basta un colpo d'occhio per capirsi e nella testa risuona un solo imperativo: rapido. E vabbè, a Genova ho subito la guerra, ho avuto la sensazione di stare in guerra, vedere quegli elicotteri che invece del napalm ti bombardavano lacrimogeni è una cosa che mi ha ucciso ed era una cosa che non avevo mai visto. Quegli elicotteri mi hanno riportato alla mente uno dei miei film preferiti, Apocalypse Now. Lì mi sono sentito davvero la guerra sulla pelle. Genova è tutto, proprio tutto. Al di là di quello che è successo, io a Genova ho cantato We Shall Overcome insieme coi cristiani, ho sfondato le vetrine con i Black Bloc, ho fatto il matto nelle performance con i Pink, ho portato lo scudo coi veterani di Via Tolemaide. Poi non me ne frega niente di quello che ho fatto realmente. Forse non avrò cantato We Shall Overcome, forse non ho bruciato una banca. Questi sono cazzi miei che non riguardano nessuno, tanto davanti a un giudice non ho fatto né uno né l'altro. Non è questo il problema, ma moralmente tutti abbiamo fatto ogni cosa. Ognuno di noi ha subito la guerra, una guerra che ci hanno scatenato contro. A Genova eravamo come colonie di amebe. Io ero una ameba che quando manca il cibo si concatena con le altre e forma una colonia, restando una singolarità. Genova è stata tutto quello che è successo, chi pregava e chi sfondava le vetrine. Genova è quello. Chi non capisce questa cosa non ha capito quello che è successo dopo. Non ha capito l'11 settembre, non ha capito che la guerra è iniziata quel giorno e ancora non è finita. Il venerdì fu la battaglia più grossa a cui abbia mai partecipato. Una battaglia durata 3 ore, è terminata dopo che hanno ammazzato Carlo Giuliani. La gente è riuscita a dare battaglia per difendersi dalla polizia con quello che trovava per strada, perché non c'era materiale per la difesa. Eppure la battaglia è durata 3 ore. Io sono adesso quelle 3 ore di battaglia. La guerra è entrata dentro di me, è come se fossi stato pestato a Genova, pestato a sangue, torturato come a Guantanamo, come a Burgaib. Mi hanno bombardato come a Kabul o come a Baghdad, mi hanno imprigionato a Gaza o in un CPT. Io sono tutto questo disastro, sono quello che ho fatto e quello che non ho fatto, sono il pink che stava sui trampoli, sono il gay in piazza con lo striscione del suo circolo, quello che stava fra i migranti con il Corano in mano, quello col crocefisso o la bandierina della pace, oppure quella che non sopporto più di Che Guevara, addirittura con la bandiera di Stalin. C'era Genova, beh, allora la portavo anch'io quella cazzo di bandierina. Quei giorni indimenticabili, dove ho vissuto un'esperienza irripetibile, dove camminavo a 10 metri dal suolo perché il cielo era caduto sulla terra. Giorni d'amore e di odio, attimi rubati alla matrice. Quei momenti non li dimenticherò mai. Quanto pianto, mentre ci ritrovavamo verso il Carlini, morto Carlo, con i porci che ci inseguivano. Nel momento in cui i miei occhi si riempivano di lacrime, ho sperato che mi apparissero quei due balordi del film di Sergio Leone, uno buono e uno brutto. Quei due disperati che disertarono la guerra, stufi di vedere morire degli uomini per un fottuto ponte da conquistare, e quindi decisero di minarlo e di farlo scoppiare, boom, quel ponte del cazzo. Avrei voluto vedere apparire quei due davanti a me a Genova, usciti direttamente dalla pellicola di Sergio Leone, vederli all'opera in via Tolemaide far esplodere quel tratto di strada che ci divideva dai maiali e creare per sempre un crepaccio invalicabile.